solo con. Ah, c'è un altro 16? Sì, ma era un po' che non passava. E tra tanto non passava oggi. Sono passati uno di non l'ho visto. Non c'è altra posta qui, è proprio pieno.